Città Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivenni. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siamo a mercoledì 5 aprile 2023 e naturalmente siete all'ascolto di Radio Città Fujiko 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica da Bologna, ma per chi abita fuori il circondario, chiamiamolo così, di Bologna c'è la possibilità anche di ascoltarci via web scaricando l'apposita app che troverete sul nostro sito, appunto www.radiocittafujiko.it, e da lì potete poi ascoltarci everywhere. Come ogni mercoledì, o quasi, va in onda a quest'ora alle 10.30 del mattino una trasmissione che si chiama Città Fujiko Live Club, che vi propone musica ufficiale registrata dal vivo ufficialmente. E Città Fujiko Live Club inizia sempre con una novità, e anche oggi non sono da meno, oggi anzi è una grande novità in tutti i sensi, perché sto parlando di un ensemble, di un combo che consta di 3 CD e un DVD. È una cosa veramente mega, perché la band titolare di questo album, che si chiama The Final Flight Live all'Olimpia, e si chiama Transatlantic ed è una mega band, musica progressive di questi tempi, oserei dire. È Transatlantic non a caso, perché la band è praticamente una multinazionale, un supergruppo che è nato nel 1999 e si trova, si mette insieme, diciamo così, sporadicamente, quando i vari membri del gruppo sono liberi dagli impegni con i loro gruppi principali. Infatti abbiamo Neil Morse, che è un tastierista, chitarrista e cantante, viene dagli Stati Uniti ed è uno dei membri tosti, storici, degli Spokesbird, una grande band che vi ho già fatto ascoltare diverse volte. Alla batteria abbiamo Mike Portnoy, che è stato per anni il batterista dei Dream Theater, altra grande band. Alla chitarra e questi due sono americani. Alla chitarra e alla voce invece abbiamo Ronnie Stolt, che è svedese e suona in un'altra band che vi faccio ascoltare tutte le volte che posso, che si chiama Flower Kings. Inoltre al basso invece dalla Gran Bretagna abbiamo Pete Trewewas, che è il bassista dei Meridian. In più ultimamente si è aggiunto Ted Leonard, che suona la chitarra, canta e suona le tastiere, che fino a qualche tempo fa era membro aggiunto nei concerti, adesso invece è membro ufficiale della band. Lui è americano e viene da un gruppo che si chiama Ancient. Loro globalmente, tutte queste persone insieme, si chiamano appunto Transatlantic, da una parte all'altra dell'Atlantico. È una delle mie band preferite, diciamo, non tanto musicalmente, ma per il semplice motivo che ha fatto 11 album in tutto, 6 dal vivo e 5 in studio. Quindi una volta tanto gli album dal vivo, che sono la mia passione, battono gli album in studio nella discografia di una band. Comunque andiamo subito ad ascoltare la musica di questi Transatlantic. L'album è stato registrato il 28 luglio del 2022 all'Olimpia di Parigi ed è l'ultima data del tour in quell'occasione, appunto The Final Fly, come si intitola l'album, live all'Olimpia. Il brano che ho scelto per voi è un brano che si chiama The World We Used to Know, il mondo che come lo conoscevamo. Looking at the wreckage of prolungato finale molto alla Yes per questo brano che si chiama The World We Used to Know. Loro sono Transatlantic, la band titolare della novità che vi propongo quest'oggi. Si chiama The Final Flight Live at Olympia. E come vi dicevo, un triplo CD più DVD per questa band che è sempre molto molto sovrabbondante, diciamo, nelle sue costruzioni musicali. Ma vorrei focalizzare la vostra attenzione sull'Olympia, questo locale, questo teatro di Parigi, famosissimo locale di Parigi, che aprì nel 1983 in Boulevard des Capucines. Scusate il mio pessimo francese, già con l'italiano dei problemi, con l'inglese non se ne parla e il francese proprio maccheronico ai massimi livelli. Comunque, questo locale è vicino a Place Vendôme, che è uno dei posti più conosciuti di tutta Parigi. È stato demolito e ricostruito diverse volte, l'ultima fra l'altro nel 1997, anche se la facciata poi è stata preservata, ed è quella che vedete, quella famosissima che si vede praticamente in tutte le foto. E ha una capacità di 1985 posti seduti e 2824 invece per quel che riguarda i concerti, cioè standing. E in questo locale sono stati registrati tantissimi dischi e ad opera di personaggi famosi e meno famosi, e fra l'altro moltissimi sono in francese, come Charles Edith Piaf, Johnny Holiday e altri. Andiamo a iniziare una piccola rassegna di album o brani registrati all'Olympia di Parigi, insieme a quello che sono due pezzi da 90, anzi secondo me molto di più. Cercherò di capire da dove arriva questo modo di dire pezzo da 90, perché quelli che ci andiamo ad ascoltare adesso sono oltre il 90, ma molto oltre. I primi sono i Deep Purple, che credo e spero non abbiano bisogno di presentazioni. Dirò solamente che il 17 giugno del 1996 erano in concerto alle Olimpiadi di Parigi nella formazione con Ian Gillan, John Lord, Ian Paice, Roger Glover e Steve Morse, più una sezione fiati. L'album che ne uscì si chiama Live at the Olympia 96, che comprende anche la title track di un loro album che si chiama Perfect Strangers. E questi spero proprio non abbiano bisogno di presentazioni. Vi avevo predetto, vi avevo promesso due pezzi da oltre 90, e infatti dopo i Deep Purple sono arrivati i Led Zeppelin. Questa Heartbreaker è stata suonata in concerto dalla band il 10 ottobre del 1969 all'Olimpiade di Parigi, e fa parte della ristampa del loro primo album. Originariamente uscì nel 1969 in gennaio, ma nel giugno del 2014 è stato riedito con un dischetto allegato, che è questo appunto, registrato all'Olimpiade di Parigi il 10 ottobre del 1969. French. Vive le français. Thank you. Yeah. Woo. All summer long, my little fair, but every day like a holiday. Oh, it is. Night after night, it used to blare. People came there from so far away, and everyone sang the little tune. All around the town you heard it played, even Pepe from Napoli, he sang to Mary his serenade. Oh, baby. Can't forget my little fair. Maybe it's still there today. I sometimes hear that little tune fade in a dream of long ago, and in my brain runs the refrain, that old French refrain I used to know. Thank you. Il grande Jeff Buckley ha sempre dimostrato una grande ammirazione, l'ha sempre dichiarata anche una grande ammirazione per la musica francese, d'Edith Piaf in particolare, ed è così che quella sera del 6 luglio del 1995, durante il concerto all'Olimpiade di Parigi, ha intonato un brano di Edith Piaf che mi rifiuto di dire il titolo, in francese appunto. Più o meno, se ho capito bene, dovrebbe dire non si sa fino alla fine, ma vi lascio la traduzione per coloro che ne sanno di francese più di me. Il tutto è tratto da un album che si chiama modestamente e non molto originariamente Live at l'Olympia, Jeff Buckley. E cosa c'è di meglio di trascorrere il proprio 30° anniversario all'Olimpia di Parigi da parte di una band britannica? Penso poco. Comunque la band è britannica, anche se molti pensano sia la bandiera della musica irlandese. Loro si chiamavano Pogues, grandissimi, assolutamente fantastici, guidati da Noshe McGowan che, come ripeto tutte le volte negli ultimi anni, ha grossi problemi di salute e vive in sedia a rotelle. All'epoca però viaggiava alla grande insieme ai suoi compari e anche a una sezione fiati in questo caso, e l'album in questione, che si chiama appunto The Pogues in Paris, è stato registrato in due serate, l'11 e il 12 settembre del 2012. Ci andiamo ad ascoltare un classico dei Pogues, uscito naturalmente dalla penna di Shane McGowan, si chiama Rainy Night in Soho. Down all the years, down all the days, I look right for all your troubles, smile at your funny little ways. We watched your friends grow together, as they fell. Some of them fell in heaven, some of them fell in hell. I took shelter from a shower, and I stepped into your arms. And all its charms, I sang all my sorrows. You gave me all your joys.

Questo era il vecchio Willie DeVille, un altro grande personaggio della musica rock di tutti i tempi, che era molto molto molto amato in Francia e ha vissuto anche in Francia per un certo periodo. Questo album, che si chiama semplicemente Live, è stato registrato parzialmente a New York e parzialmente all'Olimpia di Parigi. Avete sentito all'inizio il buon Willie che salutava New York, in realtà si riferiva al brano precedente, perché questo, che si chiama This Must Be the Night, è stato registrato all'Olimpia di Parigi nell'ottobre del 1993. Concludiamo la grandissima con una band che i critici saccenti definiscono seminale, a ragione una volta tanto. Si chiamavano Velvet Underground. Nel 1993 fecero una reunion, fra l'altro con il line-up originale Lou Reed, John Cale, Mo Tucker e Sterling Morrison, e fecero un giro anche per l'Europa, vennero anche in Italia. E all'Olimpia di Parigi registrarono questo album doppio, che si chiama semplicemente Live 1993, la data è in numeri romani. Non potevano mancare i grandi classici, e quindi andiamo subito a concludere questa prima parte con un super super super classico dei Velvet Underground, che si chiama Heroin. Just where I'm going, but I'm going to try. For the kingdom if I can, 'cause it makes me feel like I'm a man. Spike into my vein, then things aren't quite the same. When I'm rushing on my run, I feel just like Jesus on. I guess that I just don't know. Guess that I just don't know. I have made very big decision. I'm gonna try. I'm going to try to nullify my life. 'Cause when the blood begins to flow, when it shoots up the trapper's neck, with all your stupid talk. Are you good? All gonna take a walk. don't know. Wish that I was born 1,000 years ago. I wish that I wish that I'd sailed the Georgian seas in a great big commercial. Going from this land here to that. Big cities where man cannot be free of all of the evils in this town and of himself and those around. And I guess that I just don't know. Ooh, guess that I just don't know. And it's my life, goes a mina to my vein, leads to a center in my head, and I'm better off than dead. just appear. And I guess that I just don't know. And I guess that I just don't know. E qui finisce direttamente nel pezzo seguente, seconda parte di Città Fujiko Live Club. Siamo mercoledì 5 aprile, secondo 2023, seconda parte che è iniziata con la novità che vi propongo quest'oggi. La band si chiama Transatlantic, super band che ha pubblicato recentemente questo The Final Flight Live at Olympia. È un triplo CD più DVD che vede la band alle prese con il loro ultimo concerto del tour che si svolse in Europa lo scorso anno. Oh, yes. Esattamente l'ultima data questa, appunto, da cui il nome del Final Flight, l'ultima data il 28 luglio del 2022 in quel di Parigi. Il brano, forse l'ho già detto ma lo ripeto, si chiama The Darkness in the Light. Come sempre però nella seconda parte di Città Fujiko Live Club arriva Recorded Today, i brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna, nel trascorrere degli anni. Ancora una volta dirò che ci sono tanti brani registrati in questa giornata e ancora una volta dirò che il criterio di brani da proporvi, un criterio tutto mio, è quello di un brano per ogni decade. Iniziamo subito la grandissima con gli anni 70, siamo esattamente nel 1973 con una grande band che si chiamava Traffic. Fu fondata nel 1967 da Stevie Winwood, che però la sciolse qualche anno dopo, due esattamente, nel 1969, per andare a formare insieme ad Eric Clapton e a Ginger Baker e a Rick Grech quella fantastica band che si chiamava Blind Faith. E però poi dopo lo scioglimento dei Blind Faith lei tornò sui propri passi, riformò la band insieme agli amici di prima, Chris Wood e Jim Capaldi, e aumentando, mettendo insieme anche altri musicisti che però sono sempre stati considerati esterni alla band, e andando in tour in Europa, e nello specifico in questo caso nel 1973 siamo a Francoforte in Germania, era il 5 aprile e loro erano appunto alla Jahrhunderthalle, anche qui col tedesco andiamo alla grandissima. Il pezzo che ho scelto per voi quasi forzatamente, perché è il più corto di tutti, gli altri superano abbondantemente i 10 minuti, questo è la title track di uno dei loro ottimi album, si chiama Shootout at the Fantasy Factory. Yeah. 1973, l'anno che portò i Traffic anche qui a Bologna in uno splendido concerto al Palazzo Rita, e qui invece siamo in Germania, e siamo esattamente a Francoforte, ed era il 5 aprile del 1973 quando registrarono questa Shout Out the Fantasy Factory. Gli anni Ottanta sono rappresentati da un gruppo che potrebbe essere l'emblema degli anni Ottanta. Si chiamavano Eurythmics. Sono sempre stati a metà strada fra un buon rock e molto pop, ma sicuramente una band piacevole, formata da due ex tourists. La band si chiamava così, non è che fossero ex turisti. Annie Lennox e Dave Stewart. Poi nel 1980 decisero di mettersi in proprio, formare questi Eurythmics, che hanno avuto un successo planetario assolutamente incredibile e una volta tanto meritato. Qui abbiamo un doppio album, anzi nel mio caso triplo, ma poi vi spiegherò perché, che si chiama Live 1983-1989, che sono poi gli anni in cui sono stati registrati i vari concerti in diverse epoche. Dicevo doppio, uscito normalmente, ma c'è anche un'edizione particolare, tipo quella che ho tra le mani, che ha un dischetto occluso acustico, un medley acustico dal vivo registrato a Roma. Questo invece è stato registrato al Chicago Auditorium di Chicago, naturalmente, Illinois, esattamente il 5 aprile del 1984. Annie Lennox si chiede chi è quella ragazza che ti gira intorno. E questi erano gli Eurythmics all'apice della propria fama, Chicago Auditorium, 5 aprile 1984, Who's That Girl, il brano che ci siamo ascoltati. Passiamo direttamente al 1998, abbiamo in scena uno dei miei gruppi preferiti in assoluto, si chiamano Fish, sono americani, vengono da Burlington e sono attivi dal 1983, hanno pubblicato una miriade di album dal vivo, molti loro concerti sono reperibili anche sul loro sito scaricandoli e a pagamento naturalmente. Qui però abbiamo una serie che è stata edita anche fisicamente in CD, addirittura triplo in questo caso. Siamo al Civic Center di Providence, provincia, stato di Rhode Island, e il pezzo che ho scelto per voi forzatamente perché è il più corto, altrimenti sforerei con la pubblicità, si chiama Shafty, era il 5 aprile 1998, Fish. Thank you. Innanzitutto una precisazione: il pezzo dei Fish di prima non è stato tagliato, finisce proprio così perché poi entra direttamente nel brano seguente, giusto per dovere di cronaca. Come per dovere di cronaca vi dico che ci siamo ascoltati un brano che si chiama Magdalena, Una band, una super band anche in questo caso, che si chiama A Perfect Circle. Alcuni dei migliori musicisti provenienti dai Tools, dagli Smashing Pumpkins, dai Queens of the Stone Age, ogni tanto si mettono insieme e formano appunto questi A Perfect Circle, un circolo perfetto, che è capitanati poi in realtà da Minor James Keenan, che è il vocalist di una band che si chiama Tools. E ogni tanto pubblicano un album, in questo caso invece è un singolo con 4 brani, di cui 2 dal vivo, e quello che ci siamo ascoltati appunto è Magdalena, e il tutto è stato registrato al Key Club di Los Angeles il 5 aprile, scusate, del 2000. Amy Ray e Emily Sellers sono insieme dal 1985, entrambe suonano la chitarra, il mandolino e cantano, e insieme sono denominate Indigo Girls, vengono da Atlanta, Georgia, e sono molto molto famose negli Stati Uniti, soprattutto perché sono state fra le prime, fra le cantanti artiste musicali americane a dichiarare la propria omosessualità, e sono diventate un'icona per il movimento LGBTQ e tutto quello che ci volete mettere dietro. Qui abbiamo il loro 4º album live, esclusi promo, che però si trovano anche a prezzi abbastanza abbordabili, ed è un album che si chiama Live with the University of Colorado Symphony Orchestra, il che dice già tutto. È appunto registrato con l'Orchestra Sinfonica del Colorado, registrato al Mackey Auditorium dell'Università del Colorado, che è a Boulder, che se ricordo bene deve essere la capitale del Colorado, ma non sono sicuro, prendetelo con beneficio di inventario. Il pezzo che ho scelto per voi si chiama Chicken Man, loro sono Indigo Girls. I am an only child, born of the wild, riddled to spend time defending the land. You are the only one, you're born in the sun, riddled to spend your time defending my plan. Yeah. We were driving into Austin when we met this man by the side of the highway. He sold us some junk. We had a little conversation. Yeah, he was wise, but he was dirty from all the weather. I said, darkness in the darkness, all the carnage of my journeys makes it harder to be living. He said, it's a long road to be forgiven, and it's wrong. Indigo Girls con Chicken Man, registrazione effettuata a Boulder in Colorado il 5 aprile del 2017, e con questo si è concluso Recorded Today. Mentre a concludere Città Fujiko Live Club ci sarà sicuramente la novità che vi propongo quest'oggi, ma intanto vi voglio ricordare che vi siete ascoltati Città Fujiko Live Club, appunto, 2 ore di musica dal vivo ogni mercoledì dalle 10.30 alle 12.25, naturalmente 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica, più l'apposita app che potete scaricare gratuitamente sul sito, così potete ascoltarci in tutto il mondo. A concludere, vi dicevo, ci pensa la novità che vi ho proposto, Transatlantic Super Band, che ha pubblicato questo triplo CD più DVD, si chiama The Final Flight Live at l'Olympia, e il pezzo più corto che ho trovato è questo che ci andiamo ad ascoltare adesso, si chiama Take Now My Soul, Transatlantic, e naturalmente l'appuntamento è per mercoledì prossimo, stessa frequenza, stesse modalità d'uso. Ciao a tutti da Nevio. Dance again, oh yes we will. But the moistened heat did not subside our fears. dancing.